Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, bentornati a Smart City. Torniamo sul progetto iHeart in corso al Politecnico di Milano, progetto di cui parlammo in occasione dell'assegnazione di un ERC Advanced Grant di 2 milioni e oltre. Insomma, l'ERC è uno dei più ambiti finanziamenti che l'Unione Europea riconosce ai suoi scienziati. iHeart mira a realizzare un modello matematico completo del cuore, una sorta quindi di cuore virtuale in grado di simularne il funzionamento tenendo conto di tutti i processi della funzione cardiaca, quindi la geometria del cuore, la contrazione dei muscoli, la propagazione dell'impulso elettrico, la fluidodinamica, che è una cosa complicatissima, del sangue nei ventricoli, negli atri, la dinamica di apertura delle valvole cardiache. Questo cuore matematico, diciamo così, oggi esiste e si sta procedendo a metterlo alla prova in diverse circostanze, laddove produrre un modello virtuale del cuore può servire a curarne meglio uno vero. Ne parliamo con il responsabile del progetto, matematico di fama internazionale, il professor Alfio Quarteroni. Buonasera, bentornato. Buonasera, grazie. Allora, io direi, partiamo proprio da questi esempi applicativi e quindi di utilizzo del vostro lavoro. Il primo riguarda la correzione di aritmie. Ecco, dove sta il problema e come aiutate a risolverlo? Beh, l'aritmia si determina perché ci sono degli impulsi elettrici che si generano in maniera sbagliata in posti sbagliati. E ovviamente l'intervento medico è quello di arrivare a fare delle ablazioni, delle bruciature in punti che si ritengono responsabili di questo tipo di malfunzionamento. Ecco, cerchiamo con la matematica di guidare i medici a trovare il posizionamento ottimale per fare l'ablazione e magari anche determinare in un secondo momento qual è la quantità corretta di materiale da ablare. Di tessuto cardiaco proprio da eliminare, che è questo da cui parte il battito irregolare. Il secondo caso invece applicativo ha sempre a che fare col battito cardiaco, ma si parla di risincronizzazione in questo caso del cuore. Beh, diciamo, in questo caso c'è un cuore che batte in maniera sincrona e quindi dobbiamo ripristinare un comportamento di battito il più armonioso possibile. Okay. E questo si fa attraverso aiutando il cuore dall'esterno. Nel primo caso si bruciava letteralmente, si bruciavano in certe posizioni delle cellule, in questo caso invece si mette uno strumento esterno per ripristinare questa sincronizzazione. Si cerca di posizionare un device, tipicamente due elettrodi in posizioni diverse, per permettere poi al cuore di riprendere il suo battito normale, di risincronizzarlo, parte destra, parte sinistra, diciamo. Okay. Questo è un intervento molto invasivo e vogliamo aiutarli a rendere questo intervento di posizionamento del device molto più rapido da un lato e poi trovare le posizioni ottimali in modo tale che poi il rendimento sia il più efficace possibile. Terzo caso applicativo riguarda invece una patologia completamente diversa, la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva. Ipertrofico vuol dire che c'è qualcosa che è cresciuto troppo, no? Esatto. Questa effettivamente consiste nell'ispessimento del setto. Il setto è, se vogliamo, la parete che separa cuore sinistro da cuore destro, ventricolo sinistro da ventricolo destro. E quando questo ispessimento diventa troppo significativo, troppo importante, rende difficoltosa l'espulsione del sangue dal ventricolo sinistro nella nostra aorta. Allora bisogna rimuoverlo, bisogna toglierne un pezzo. E questo non è assolutamente banale. No. Si può immaginare, lì c'è una fluidodinamica, un'interazione dal flusso di sangue con la parete che si muove meccanicamente. Questa interazione è molto importante, quindi sapere dove togliere, quanto togliere, è qualcosa che in genere si fa sulla base dell'esperienza e dell'intuizione del medico, e anche qui vogliamo cercare di guidarli con degli strumenti che sono più ispirati dalla fisica e che danno risposte matematiche più, certo, più quantitative, quindi più un approccio affidabile. Più quantitativo e meno, mi lasci dire, istintivo. Prego. Questo è vero, è verissimo, e anzi questo, se vuoi, gli esempi che abbiamo citato sono esempi di un paradigma molto più generale, no? Ecco. È chiaro che questo richiede una interazione col medico fondamentale. I modelli sviluppano una sorta di scatola magica che contiene equazioni che valgono per tutti i possibili cuori umani, e poi per alimentare questi modelli abbiamo bisogno del dato del singolo paziente, quindi la sua forma del cuore del paziente, che ovviamente si otterrà attraverso l'imaging clinico, ma anche altri parametri come per esempio la disposizione delle fibre o la conducibilità elettrica o dei parametri o la densità del sangue, eccetera. Ecco. Che caratterizzano completamente quel paziente. Ecco, non a caso voi parlate di medicina computazionale, che naturalmente può essere applicata al singolo organo, come negli esempi di cui abbiamo parlato, ma può essere anche applicata a un intero apparato, ed è qualcosa che state sperimentando proprio in relazione al Covid. Sì, diciamo che quello che vorremmo fare in generale è realizzare sempre attraverso equazioni una sorta di rappresentazione virtuale di quello che succede, non solo a livello di singolo organo, ma a livello sistemico. Nel caso del Covid, beh, questo è un esempio, no? Ovviamente l'organo più danneggiato dal Covid è il polmone. Questo genera a livello sistemico, ovviamente adesso sto ipersemplificando un problema complicatissimo, ma due tipi di problemi. Il primo è una incompleta o insufficiente saturazione di ossigeno del sangue. Certo. Questo poi nel cuore si riflette attraverso un apporto da parte delle coronarie al miocardio insufficiente di ossigeno, e quindi alla fine in uno stato di sofferenza di alcune cellule del miocardio, poi alla fine alla loro morte, quindi in particolare certo. Riduzione della capacità contrattile del cuore. E la seconda è che il cuore, quando manda sangue venoso ai polmoni, incontra una resistenza eccessiva da parte dei polmoni, quindi deve fare uno sforzo enorme, uno sforzo supplementare, e quindi va soggetto a un deterioramento meccanico. Ecco, legare insieme questo, diciamo, rapporto cuore-polmoni attraverso equazioni è importante, perché mette in evidenza delle relazioni non lineari molto complesse tra variabili molto diverse. Questo è un esempio di quello che immaginiamo essere appunto la medicina computazionale. Va bene, grazie professor Quartieroni, e avanti così, come diciamo qui a Smart City. Grazie a lei, buonasera. E allora, cari ascoltatori, buona serata anche da parte mia, e a domani.